non fare a pagarcelo, fanno fuori legge. Purtroppo non hanno bisogno di attaccare, hanno smantellato la piazza, allora dobbiamo fare un più per recuperare, capito? Ecco perché ce l'hanno chiesto. Allora, tutti quelli che li hanno fatti, anche i fabbri li hanno pagati. Ma la maestra me la dirico, la dove la carino. Ma a noi vanno pagati di, va bene, recupera a lui, che da lui non me l'ho recuperato mai. Perché già quando sono andato a Cagliari, la volta che sono andato a Cagliari non me ne hanno scontato, e quindi Ballati che mi educava me l'ha giurato in tutti. Perché se no io ora, se volevo, le ore che avevo, a un altro. Ma Cagliari, capito, per l'esame. Sono andato, l'ho chiesto al dottore, dottore mi serve un giorno perché devo fare una cosa a Cagliari. Devo fare, ma me lo dici un giorno prima, ma sì. Quando prima sono andato per dire, mi dottore, ma non ci sono, devo andare a Cagliari, lo sa già. Ma me mi dice, non c'è problema, va qua. Ma poi sono venuto da fine mesi e ho giubilato un altro stipendio. E non me le hanno scontate. Faccio io a 1200. Dipende dalle giornate che fai, non è mai uguale lo stipendio. Capito? E va bene, lo stipendio, la base qual è, più o meno? Ora per favore. Stipendio secondo le ore che fai, capito? Secondo i giorni che fai, poi manca una lì, magari la prendi festiva e non ti la fai, è un casotto. Praticamente secondo le ore che fai ti pagano, non è mai uguale lo stipendio. Aspetta, ma qual è Don Barboni? Avanti, chi è? Non so come è Boni, sono smarmato, hai capito? Aspetta, non faccio vedere una cosa. Questo è non è neanche toccato. Non ho capito, no. Se si trova qualcuno a seconda mano per me. E quanto ho pagato, Vandello? Dipende da dove vuoi vero tu. 1200 euro. Quello, Natalino. Quello, Natalino. Mondo zero. c'è problema, dai, no, no, c'è problema. Allora sai come fai che adesso te lo spiego io. Dimmi, dimmi. Viva Racchini, tocca lì, vedi che vi sono rimasto, che la portante era già avuta. E adesso faccio questo da radio, va, se mi viene d'Italia, li vedi. Adesso io devo collegare il microfono, tre figli deve attaccare in quello lì. Allora sai come li attacchi, fai che? Li sbucci bene, i tre cavi vai vicino alla presa, li infili tutti e tre, uno non gli buco. Ho visto gli uomini con la, cioè con la, là, Guarda, aspetta un attimino. Guarda, questo qua è quello che sto dando. Non so come mi ascolti. Aspetta un attimino. Ok. Microfono da tavolo. Questo va bene per casa. Gabba gabba. domani posso rivedere. Faccio più straordinari. Su, grimbato. No, no, basta. No, male che tempo ho messo, no, male che tempo ho messo. Bello, lunedì non mi sono più già. Va. Yeah. questo, perché sennò ti fa abbonare alla croce. Ci vediamo fra circa una ventina di minuti. Ciao. Andate lì e a protestare all'Enel, se no vi devo pagare la prigione. 50 sì, io vado da 600. Ma questa è occhio, o se fa il bisogno di soldato, va? Ma quanti siete, Luca? Quanti? In tre. E tu siamo in 5, 130, 140 al massimo, mi alluisi però, Beh, io posso andare a mangiare un'adì per qua. Però scalla mai non è facciato questo numero. Quindi paga quel tanto, quando arriva, così, boom bam, in mano. Ma non fatto a noi, come ti ho detto, per, in base al reddito, abbiamo pagato quei 13 euro. 12 euro che erano, boh. E poi sono passati 3 mesi e ci è arrivata la bombardata. Questo dove il... forse mi dicevano di Basia, venite qua. Forse lì la truffa, lì. Sono stata al cazzo, cioè andate mia madre a farlo, perché non è suo. Ma vabbè. Come è successo? Ce l'hanno fatto. Povero, non kilowatt. Ti faccio un kilowatt che ti fa andare la lavatrice, il televisore, la lavatrice non te lo fa andare. La lavatrice non te la fa andare. Tutto quanto, tranne che la lavatrice fa andare a bagno, farò la zio, fondo, la roba lì. Io credo che se non fa il stacchino, No, non è un peso, no. Allora, è nel normale, ti lasciano, ti abbassano i kilowatt per un mese. Perché poi tu vieni qua, si attaccano, arrivano a 100 volte, poi staccano. Ciao, sono qui, io sono bene, devo dare anche la maschera, ragazzi. prossime. Ho limitato la macchina a rotto, che devo uscire, salutando tutti anche gli SW dell'ascolto, al nuovo QRT. Esatto, così ti è capparoce, dai. Va bene, dai, la parita, ce la risentiamo, cappa. di mandare sulla via della perdizione. E il fuoco a dietro? Cosa lo vedi? Arriva un gostiamo, Massimiliano, allora, buonasera. Buonasera, io ce la moglie la matta, là. Hai Massimiliano, quando fai così ti temo. Me l'ha cacciata volta? Via. C'è un pezzo di salsiccione lì, la sta lì per mangiare. E anche io ho mangiato. Però mangiamo, lo cucchiaio di gallaggio. Non ci voglio io, lo spiego a porta. Una sigaretta con la cartina e te la giri. Ma qui smesso di fumare. Perché ho smesso di fumare, bravo Luca. Anche io, però è tua. No, no, io ho smesso del tutto. Ma guarda quando? Da gennaio. Cazzo. Ti voglio lasciare dove tu un poco. Ah, è più bello, sei Massimiliano, come ti trovo sei mio. Ma la puta me la farò secca ancora, eh. Ah, te la vedi, ecco. C'è un po' di mazza, ma donna santa, anche io ti ho ingrassato, ma la sorte, qualche giorno in più ce la avrai, ma qua mi invece zitta. Va bene un po' di pancetta. Cattolino, come sei arrivato? Fino a Ponte Nuovo. Di madre, le prima due, dica. Sì, io sto camminando anche piano. Ce l'ho fermata a mangiare, là. Allora sono bastardi, allora sono bastardi. No. Tu? Posso fare 3 chili in peso, nulla. Io 10 in più. Ma vabbè, sono stato sempre male, capi? Di costituzione sono così. Io facevo sempre una media di 59, 58, 60. Cazzo, ma ci ha tamara 73 chili. Sono un bel. Ma quanto mi pesi, Luca? Ti pesi tu? Allora? Di roba. Ma sta tipo sopra la bilancia, vedi? Schiro sopra te li peso così. E infatti mi ha detto di diminuire, perché peso troppo. 72 va bene per me, dai. Anche di meno, di meno di 60, di 70 dovrei pesare. Ma è dimagrito con me? Tu? Ho dimagrito sì, anche io ero più dimagrito. Adesso mi inizio a fare ginnastica a camera, vedrai se dimagrisco. No. Ma che devi accare la camera? Io me la seguo un peso, sì. Ma perché si può fare quella sega? Infatti, ha detto, fa la camera brutta, quasi che mi ha creccio. Bastardi, bastardi. Ciao ragazzi. Signore. Adesso il sorpasso. Il sorpasso. Sto chiamando, non rispondere, tu. Che cosa mi viene di sigarette? Giusto! Cazzo! Se avesse qualche cosa, vedo lampeggianti blu, però io ci non me la continuo. Sono io quello. Dove siete? Adesso dove c'è già andato, sono perché ti sentivo un'altra volta lo stesso, con il baracchino spento. Però che si illuminava non lo sapevo. Oh ragazzi, io sono arrivato, dai, ci sentiamo domani se coincide, dai, buonanotte a tutti, vi saluto. Ciao, ciao, ma se vogliamo un'altra, buona domenica per domani, dai. Ci ascoltiamo le prossime. Allora, ciao, ciao, ciao. Buonanotte. Ciao, ciao. Io che sei un dicivo, ma sei, ci invia... Prima del Ponte Nuovo, in quella via, sono via Marra. Cosa c'è? Disturbo, birivi birivi birivippa. No, sempre, sempre, sì, sempre così è lì. Oh signor, voi sempre lì siete? Io sono sempre qua, la tua via. Via, dai. Non vedo le corna qua. Sei Anthony. Sei Dari Gianni che... E sono io. Antonio lo fa meglio, lo fa più originale che lo Antonio. Non sei Antonio tu? Antonio ce n'è uno, tutti gli altri sono nessuno. Beh signori, io sono arrivato, vi saluto, buonanotte.